Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina. Oggi è il 18 novembre. Italia in controluce si intrufola nelle storie di cronaca italiana attraverso il reportage e il racconto. Buongiorno e buona mattina da Daniele Biacchesi. Quello che si batte per l'acqua come bene comune è un movimento nato sull'onda del referendum che chiede l'abrogazione di alcune norme previste dal decreto Ronchi che di fatto privatizza l'acqua. In pochi mesi sono state raccolte e depositate in Cassazione oltre 1.400.000 firme. A marzo si deciderà sul referendum. Ma da chi è composto questo straordinario movimento nato in forma trasversale, soprattutto fuori dai partiti? Cristina Carpinelli. Se 1.400.000 italiani hanno firmato perché venga svolto un referendum sull'acqua come bene comune, significa che esiste un problema percepito fortemente dagli italiani e che questo problema può trovare soluzione. I tre quesiti referendari richiesti da questa moltitudine di persone prevedono: punto 1, abolire la possibilità di dare la gestione dei servizi idrici a privati attraverso gara o società a capitale misto, ossia con almeno il 40% privato scelto attraverso gara mediante affidamento diretto. Punto 2 e 3, fermare la privatizzazione dell'acqua e aprire la strada della ripubblicizzazione ed eliminare i profitti dal bene comune acqua. A far scattare questo movimento sono stati i fatti contingenti. E allora, cominciamo dalla situazione generale. Paolo Carsetti, segretario della campagna referendaria. Beh, oggi siamo a un punto, diciamo, cruciale. Abbiamo avanzato, diciamo, una richiesta di moratoria sul processo di privatizzazione dei servizi idrici. Ossia, il decreto Ronchi pone delle scadenze per l'avvio delle gare, in particolare al 31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2011 per quelle società a totale capitale pubblico che appunto devono mettere a gara almeno il 40% delle proprie azioni entro queste due date. Noi, in virtù del fatto che c'è una convocazione di un referendum che ha visto un sostegno popolare tanto alto, crediamo che debba essere rispettata questa volontà e quindi che si approvi un provvedimento di moratoria fino a quando non si svolga il referendum. Intanto però, a che punto è l'iter per il referendum? Ancora il signor Carsetti. Siamo in attesa del responso della Corte di Cassazione, che già è in ritardo rispetto ai termini di legge. Poi, diciamo, la Corte di Cassazione passerà la palla alla Corte Costituzionale, che vaglierà l'ammissibilità appunto costituzionale dei tre quesiti. In Italia ci sono 92 comuni in cui la gestione dell'acqua è stata data quasi totalmente ai privati o a società per azioni. Spesso dietro queste società ci sono grandi multinazionali che a livello globale gestiscono il business dell'acqua pubblica. I colossi sono la Suez e Veolia. Entrano anche nella gestione della nostra acqua fondi di investimento stranieri. L'apertura al mercato è dunque totale. Ma il servizio erogato è all'altezza del prezzo che paga il consumatore finale? Le situazioni storicamente più difficili e note sono due: Frosinone e Aprilia, in provincia di Latina. Partiamo allora da Frosinone. Lì l'acqua è gestita quasi interamente da una multinazionale, la Acea Auto 5, e i risultati, almeno in termini di aumenti della bolletta, si sono visti, come ci ha raccontato il signor Severo Lutrario. Il nostro è il primo caso di privatizzazione totale del servizio idrico, cioè di cessione a un gestore privato. È dal 2003, dalla fine del 2003 che inizia la gestione e si è caratterizzata in maniera devastante per quanto riguarda la qualità del servizio. Omissioni che hanno comportato oltretutto un deciso peggioramento della qualità della risorsa sia del servizio. Di contro abbiamo assistito ad aumenti vertiginosi delle tariffe, aumenti che sono oggetto delle inchieste della magistratura, aumenti delle tariffe assolutamente abnormi, applicati retroattivamente. Praticamente nel 2008 sono stati stabiliti aumenti di oltre il 20% sulle tariffe per gli anni 2007, cioè sono state applicate retroattivamente. Qui c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato che diciamo scopre l'acqua calda, cioè che le tariffe non possono essere applicate retroattivamente. E così i cittadini di Frosinone cominciano a usare uno strumento, il reclamo. Ancora il signor Lutrario. Noi abbiamo cominciato sistematicamente a reclamare con lettere raccomandate, con ricevuta di ritorno, queste tariffe, sia il fatto che il corrispettivo del servizio veniva richiesto per un servizio che non era stato erogato, o quantomeno non era stato erogato nei termini contrattuali, e sia perché il corrispettivo non corrispondeva a quanto previsto dal contratto e a quanto previsto dalla legge. Protestano e si battono allo stesso modo anche i cittadini di Aprilia. Sentiamo il signor Alberto De Monaco. Un quadro che facciamo medio del passaggio tra il 2004 ancora con tariffe comunali al 2008, per esempio un utente in prima abitazione ha avuto un aumento medio, diciamo, del 100%, per non parlare di attività commerciali, abbiamo aumenti medi che vanno del 600% rispetto a quello che pagavano prima. Possiamo dire che nel 2004 una famiglia che se consuma 190 metri cubi l'anno pagava 122 euro, questa stessa famiglia nel 2010 ne arriva a pagare 265. Si è detto molto negli anni dell'ingiustizia del minimo contrattuale, per cui si pagava un minimo al di là se il consumo c'era o non c'era. Questo, diciamo, in generale è stato ripristinato sotto altra dicitura e altra forma, è la benedetta quota fissa, per la quale per esempio un cittadino virtuoso che consuma solo 40 metri cubi l'anno si trovava a pagare nel 2004 soltanto 28 euro e ne paga nel 2010 88 euro, perché sopporta una quota fissa di oltre 55 euro. La seconda edizione di Italia in Controluce, il mio blog www.radio24.it, Biacchessi, Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Oggi alle 13.30 su Radio 24, altre storie.